Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. La vendetta, che Tondi aveva inconsciamente temuto, era infine arrivata. In fondo era bastato poco. Qualche foto di una bella ragazza, un falso profilo su Panorama, un uomo pronto a perdere il senso del ridicolo perché provato dalla vita. Ottavio Tondi terminò il suo messaggio con la seguente frase: «Se c'è una cosa positiva in tutto il male che mi hai fatto e nel bene che ti ho voluto, Ligeia, è che non esisti. Mi risparmi la pena di odiarti». Era il 21 dicembre del quarto anno di corrispondenza tra Ottavio Tondi e Ligeia Tissot. Quella notte Tondi dormì male. Era spossato, ma il vuoto seguito al suo sfogo gli agitò il sonno. Alle 4 del mattino si svegliò in preda a un incubo. Non ricordava nulla del sogno, sentiva però che era stato terribile, forse il peggior incubo che avesse mai fatto. Si alzò per andare a pisciare. Mentre stava per entrare in bagno, si voltò verso il tavolo dove era collocato il computer. Si accorse di averlo lasciato acceso. «Vaffanculo», disse tra sé, deviando verso il tavolo. Non appena impugnò il mouse, lo schermo si illuminò, mostrandogli il profilo di Ligeia Tissot. Notò qualcosa di strano nel riquadro della vista. L'aprì e vide il letto. Non era più disfatto, ma perfettamente in ordine. Ebbe la sensazione che si prova mettendo piede per la prima volta in una stanza d'albergo. Non c'era più niente sul letto. Niente più posacenere sporchi, canne fumate per metà, bottiglie vuote. Niente assorbenti, libri, calze, reggiseni. Niente salviette sporche, niente jeans, maglie, magliette. Niente di niente, a parte una cosa. Un rettangolo di carta che avrebbe potuto essere un foglio o una foto. Ingrandì il dettaglio. Una foto. La foto di un ventre femminile. Sulla pelle, una parola scritta col rossetto. Le lettere erano disposte in modo da formare un cerchio che aveva per centro l'ombelico. La parola era «Vaffanculo». Tondi non aveva ancora messo bene a fuoco quell'immagine, quando si accorse della presenza di vari messaggi non letti nella sua posta. Erano tutti di Ligeia, tutti spediti prima del 21 dicembre. Messaggi pieni di affettuosa apprensione, nei quali gli chiedeva che fine avesse fatto. «È soltanto una mia speculazione, ma non credo che Tondi abbia avuto la forza di leggerli tutti». Non che ce ne fosse bisogno, peraltro. Nei giorni seguenti scrisse varie volte a Ligeia. Il contenuto e gli accenti di quei messaggi sono facilmente immaginabili. In ogni caso, chiunque può leggerli ora. I messaggi rimasero senza risposta. Da allora, il profilo di Ligeia Tissot non ha più mostrato segni di attività. Il letto è rimasto come Tondi lo vide quella notte, perfettamente in ordine e con la foto della pancia che dice vaffanculo. Fu soltanto per un caso che venni a sapere del gesto di Tondi. I giornali, ma chi leggeva più i giornali ormai, avevano dato la notizia in poche righe, parlando genericamente di un uomo di 53 anni. Ottavio Tondi si era così allontanato dalla celebrità di un tempo che non valeva neppure la pena di chiamarlo per nome. «Ti ricordi di Ottavio Tondi?» mi disse un amico. «Annuì. Erano passati anni, ma impossibile non ricordarlo». Mi raccontò del gesto. «Era messo male», disse alla fine come per giustificare. «Pare si fosse giocato il cervello ficcandosi in una delle diavolerie di adesso, una cosa di internet, una società, un social. Quella roba lì, un paesaggio. Credo si chiami Panorama. Eravamo in un angolo di piazzale Appio, dove da qualche tempo si riunivano i superstiti dei vecchi tempi. Una famiglia napoletana, padre e due figli, si era impossessata di un tratto di marciapiede e di una cabina telefonica senza più telefono. Erano poco più che barboni, vendevano libri recuperati qua e là. Prezzo fisso, diceva un cartello, tutto un euro. Nella gran parte dei casi si trattava di robaccia, scarti di quart'ordine, ma capitavano anche volumi di pregio. Bastava pazientare, essere metodici, farci un salto ogni giorno. E comunque era l'unica libreria rimasta in città, un punto di ritrovo. E i vigili, la gente? Domandai una volta. Nessuno dice niente del vostro commercio abusivo. Libri, poi. Sono tutti rassegnati, dottor, dissero i napoletani. Sulla via di casa, un tragitto breve, ripensai al nostro mondo di un tempo e alla vita di Ottavio Tondi, alle cose che ho qui raccontato. Non ci eravamo mai frequentati, ma le nostre esistenze erano profondamente legate. Non fosse stato per la voce che mi voleva come lo scrittore nascosto dietro il nome di Gloria Stupenda, Tondi non avrebbe mai concesso quell'intervista. Tutto ebbe inizio per uno scherzo del destino. Anzi, per uno scherzo di Teresa Ciabatti. Se c'è un momento preciso in cui la vita delle persone prende una piega, per Ottavio Tondi il momento fu quello. Quale altro se non quello? Tutto ciò ovviamente dando per buona l'idea della piega. La missione di poeta che Esquilino si era dato: individuare nella vita di una persona un fatto nel quale andrà riflettendosi ogni altro fatto di quella stessa vita. Aveva redatto un catalogo allo scopo di fissare le principali pieghe dell'esistere umano. Tante pieghe esemplari quante sono le lettere dell'alfabeto. Il sillabario delle basilari possibilità di esistere che Tondi sdegnava in massimo grado. Individuare la piega è impresa tutt'altro che facile, pare dicesse Esquilino. E qui si riconosce, pare aggiungesse, il vero poeta, nell'abilità di discernere nel folto arabesco che è l'esistenza di ogni individuo la voluta primaria su cui si modellano tutte le altre. Malgrado io viva da anni nel quartiere da cui Esquilino prese il nome, non mi capitò di incontrarlo né ho conosciuto qualcuno che lo avesse incontrato. Nessuno sa con certezza quale fosse il suo indirizzo esatto. Le poche notizie che lo riguardano hanno il valore delle testimonianze apocrife. Storie che lo vogliono solito passeggiare in Piazza Vittorio, la stessa piazza del chiosco dell'intervista, il chiosco dove Tondi passava molto del suo tempo. Pare girasse in tondo per ore, a passo sostenuto, sotto i lerci portici, mescolato all'umanità colorata e chiassosa del fatiscente quartiere umbertino, dando l'impressione di un animale in gabbia. È evidente che proprio in quelle escursioni mattutine componesse i suoi versi, le sue possibilità di esistere, le sue pieghe. Me lo figuro così: uscire di casa al mattino per puntare alla non lontana piazza. Giunto nel suo chiostro d'elezione, me lo figuro imboccare uno dei portici, magari quello all'angolo con via Foscolo. Lì cominciava l'orazione quotidiana, camminando con furia immotivata, bordeggiando le frotte di cinesi o cingalesi che gli sbarravano il passo. Macinava un portico dopo l'altro, fino a tornare al punto di partenza, dove riprendeva la circumnavigazione della piazza, sempre seguendo il medesimo percorso, sempre col medesimo incedere, pestando coi piedi i medesimi punti che aveva pestato nel giro precedente, invasato, desideroso di lasciarsi imprigionare dall'esistenza che andava recitando a memoria. Voleva carcerarsi nelle vite altrui. Voleva che quelle vite divenissero quel che è la gabbia di uno zoo per una bestia feroce. In questo, i tozzi pilastri dei portici gli erano di conforto e d'aiuto, perché disegnavano la gabbia che andava cercando. Nulla mi autorizza a dare per certa una simile conclusione, ma ritengo fosse ossessionato dal bisogno di scorgere, tra le tante possibili, la sua piega, e che abbia infine creduto di individuarla proprio nel disprezzo che Ottavio Tondi riservò al suo sillabario. Da quel momento, Tondi divenne la sua gabbia e non trovò pace finché non ebbe vendetta. Raggiunto il suo scopo, senza più piega né gabbia, svuotato di tutto, lasciò il quartiere dal quale finora non si era mai allontanato e sparì in Messico. Perché proprio il Messico non lo sapremo mai. Quando venni a sapere del gesto di Tondi, non ero però ancora in grado di stabilire un nesso con le pieghe di Esquilino. Le mie domande vertevano tutte sull'impossibilità di capire cosa c'entrasse il lettore che avevo conosciuto con l'uomo di mezza età che si abbrutisce in un social. Mi ero sempre tenuto alla larga da quei luoghi, ma la gran voglia di capire e vedere ruppe gli indugi. Andai su Panorama e qui si presentò un problema. Per poter visitare il profilo di Tondi, dovevo aprirne uno mio. La pagina di accesso offriva due possibilità: iscriviti o accedi. Non volevo iscrivermi. Cliccai accedi e nella stringa del nome utente scrissi Ottavio Tondi. Restava la stringa della password. Credo di non averci nemmeno pensato. Scrissi a colpo sicuro il mio nome e vidi tutto. I post delle cose lette, i commenti di Ligeia, le sue foto, la vista del suo letto e quella della libreria di Tondi con i dorsi dei volumi di Poe, i 4 anni di corrispondenza amorosa. Passai diversi mesi in completa solitudine a leggere e rileggere quei messaggi, commuovendomi ogni volta. Provai a scrivere a Ligeia. Le precisai che non ero Tondi e che avevo bisogno di parlarle. Non mi rispose, ovviamente. Il suo profilo restò inattivo e immutato, inclusa la vista del letto con la foto della sua pancia. Giunta l'estate, la vista di Tondi si oscurò. Qualcuno, forse qualche lontano parente, doveva essere entrato in casa sbaraccando tutto. Mi domandai che ne sarebbe stato dei suoi libri e la risposta la trovai non molto tempo dopo sul marciapiede di Piazza San Giovanni in Laterano. Notai una copia del romanzo di Gloria Stupenda, La Vergine. Lo raccolsi, l'aprii. C'era una dedica nel frontespizio. A Ottavio, per sempre grata, G. Domandai ai napoletani dove avessero preso quel libro. Da una casa qui vicino, dottore, in via dello Statuto. Vuole dei libri? Ci hanno detto. Venite da noi, ne abbiamo a montagne. O venite voi o li buttiamo. Siamo andati. Era possibile vedere gli altri? Ma certo, dottore, mi dissero. Venga, venga, dottore. Mi condussero nel grande spiazzo erboso alle spalle delle mura aureliane. Nascosto dietro un'alta siepe incolta e puzzolente di piscio, c'era un cassonetto con dentro i libri. Mi mancò il fiato. Quasi piangendo cominciai a rovistare. Trovai i racconti di Poe nell'edizione della Bianca. Trovai Bruges la morta, le edizioni in 3 volumi di Clarissa e tutti gli altri libri che avevano segnato la vita di Ottavio Tondi e la sua corrispondenza con Ligeia Tissot. Trovai anche i quaderni del letto e quelli delle memorie delle cose lette prima di dire m'addormento. E un manoscritto. Acque chete, sillabario delle possibilità di esistere di Mario Esquilino. Quanto volete per tutto il cassonetto? Ci pensarono. 100 euro, giusto perché lei, dottore. I 552 volumi che erano all'interno di quel cassonetto si trovano ora al sicuro, ben imballati, nel garage di un mio amico. Purtroppo vivo in una piccola casa e non ho spazio per tenerli. Ho però tenuto con me i quaderni, insieme alla copia con dedica della Vergine, e poi Bruce la morta e i racconti di Poe. Forse un giorno le cose cambieranno e potrò ridare a quei volumi la libreria che meritano. Immagino che a questo punto nessuno si chiederà perché abbia deciso di rivelare al mondo che la password del profilo di Ottavio Tondi è il mio nome. La mia scelta potrà essere criticata, ma le ragioni che l'hanno generata saranno comunque evidenti. In ogni caso non cerco l'approvazione di nessuno. Mi basta la certezza che Tondi, ovunque egli sia, non mi neghi la sua. Quanto all'atto finale di questa storia, ebbe luogo il 7 febbraio successivo al 4° anno di corrispondenza tra Ottavio Tondi e Ligeia Tissot. Non fu un giorno di primavera ingannevole, ma uno dei più gelidi che la capitale ricordi. Quella notte, quando Ottavio Tondi andò a Ponte Sisto, infuriava una bufera di neve non girava un cane. Nessuno può dire cosa lui abbia pensato mentre in piedi sul parapetto osservava i fiocchi mulinare verso il nero Tevere. Dall'idea che mi sono fatto di Tondi, ritengo però che abbia pensato a Kafka e al mattino successivo, a come sarebbe apparsa a coloro che l'avrebbero vista questa nostra città. Un andirivieni infinito di persone e veicoli, perché alla fine questo resta di noi. L'andirivieni altrui. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.